Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Uscii dalla porta e scesi il corridoio fino alla stanza dove Catherine doveva venire quando fosse nato il bambino. Sedetti su una seggiola e guardai la stanza. Avevo in tasca il giornale che avevo comprato quando ero uscito a fare colazione e lo lessi. Fuori incominciava a fare buio e accesi la luce per leggere. Dopo un po' smisi di leggere, spensi la luce e guardai fuori calare il buio. Mi chiesi perché il dottore non mi mandava a chiamare. Forse era meglio che non ci fossi, forse voleva che stessi via un po'. Guardai l'orologio. Se non mi mandava a chiamare, fra 10 minuti sarei andato comunque. Povera Kate. Questo era il prezzo che pagavi per essere venuta a letto con me. Questa era la fine della trappola. Questo era il risultato della gente che si ama. Grazie a Dio per l'etere, comunque. Come doveva essere prima che ci fossero gli anestetici. Quando cominciava si era nel turbine. Catherine era stata bene durante la gravidanza, non era andata male, non aveva quasi avuto nausea, non era stata a disagio che all'ultimo momento. Così adesso l'avevano presa, alla fine. Non si scampa mai da niente. Altro che scampare, sarebbe stato lo stesso se ci fossimo sposati 50 volte. E se morisse? No, non morirà. Non si muore più di parto, oggigiorno. Questo era quello che pensavano tutti i mariti. Sì, ma se morisse? Non morirà. Sta soltanto male. Il primo parto, di solito, è lungo. Sta soltanto male. Dopo si dirà come stava male. E Catherine dirà che non stava poi tanto male. Ma se morisse? Non può morire. Sì, ma se morisse? Non può, ti dico, non fare lo scemo. È soltanto un brutto momento. È soltanto la natura che le fa passare un inferno. È solo il primo parto, che è quasi sempre lungo, sì. Ma se morisse? Non può morire. E perché dovrebbe morire? Che ragione c'è perché muoia? Deve soltanto nascere un bambino, il sottoprodotto di belle nottate a Milano. Dà del disturbo a nascere, poi lo si cura e magari gli si vuole bene. Ma se morisse? Non morirà. Ma se morisse? Non morirà. Sta bene, ma se morisse? Non può morire. Ma se morisse? E allora? Se morisse? Il dottore entrò nella stanza. Come va, dottore? Non va, disse. Come non va? Non va, l'ho visitata. Espose il risultato della visita. Da allora ho aspettato per vedere, ma non va. Che cosa consiglia? Ci sono due cose. O un intervento serio col forcepe che può lacerare ed essere molto pericoloso, oltre a poter fare male al bambino. Oppure un cesareo. Che pericolo c'è col cesareo? Ma se morisse, non sarebbe molto maggiore del pericolo di un parto normale. Lo farebbe lei stesso? Sì, può occorrere un'ora per preparare tutto e trovare la gente di cui ho bisogno, forse un po' meno. Che cosa pensa? Consiglierei il taglio cesareo. Che conseguenze ha? Nessuna, c'è solo la cicatrice. E l'infezione? Il pericolo è minore di quello di un parto col forcepe. E se si andasse avanti senza fare niente, si dovrebbe finire per fare qualcosa. La signora Henry sta già perdendo gran parte della sua forza. Più presto si opera e meglio è. Opere più presto che si può. Vado a dare le istruzioni. Andai in sala. L'infermiera era con Catherine, che era distesa sul tavolo, grossa sotto il lenzuolo, pallidissima e stanca. «Gli hai detto di farlo?» chiese. «Sì». «Non è magnifico? Ora sarà tutto finito tra un'ora. Non ne posso più, caro. Sono tutto a pezzi. Per favore, dammi». «Non serve, oh, no, no, non serve». «Respira profondamente. Sto respirando. Non serve più, non serve». «Prenda un altro cilindro», disse l'infermiera. «Questo è un cilindro nuovo». «Sono una scema, caro», disse Catherine. «Ma non serve più». Incominciò a piangere. «Desideravo tanto avere questo bambino senza dare noia a nessuno e ora non ne posso più e sono tutta a pezzi. Non serve, caro, non serve più a niente. Non mi importa di morire, purché finisca. Per favore, caro, per favore, fallo finire. Eccolo». Respirò singhiozzando nella maschera. «Non serve, non serve, non mi badare, caro, per favore, non piangere, non mi badare, sono solo tutta a pezzi, povero caro. Ti amo tanto e tornerò in ordine. Tornerò in ordine stavolta. Non possono darmi qualcosa. Se potessero darmi qualcosa. Ora lo faccio servire. Lo apro tutto. Dammelo adesso. Girai il quadrante fino in fondo e mentre respirava forte e profondamente, la mano le si rilassò sulla maschera. Chiusi l'etere, le tolsi la maschera. Ritornò da un lungo viaggio. Com'era bello, caro. Sei così buono con me. Sì, coraggiosa, perché non posso farlo sempre. Potrebbe ucciderti. Non sono più coraggiosa, caro. Sono tutta rotta. Mi hanno rotta. Ora lo so. Per tutte è così. Ma è terribile. Si va avanti finché si è rotte. Tra un'ora sarà finito. Non è bello. Caro, non morirò, vero? No. Ti prometto di no. Perché non voglio morire e lasciarti. Ma sono così stanca e sento che sto per morire. Che sciocchezza, tutte sentono così. A volte so che sto per morire. Non morirai, non puoi. Ma se morissi... Non ti lascerò. Dammi presto, dammi. Poi dopo. Non morirò, non mi lascerò morire. Si capisce che non morirai. Starai con me? Non ad assistere. No, solo per esserci. Certo, starò qui sempre. Sei così buono con me, dammene di più. Non serve. Girai il quadrante sul 3 e poi sul 4. Avrei voluto che tornasse il dottore. Avevo paura dei numeri sopra il 2. Finalmente venne un dottore con due infermiere e misero Catherine su una barella a ruote e ci avviammo in corridoio. Il carrello scivolò rapidamente in corridoio e in ascensore, dove tutti dovettero pigiarsi contro la parete per fare posto, poi su, poi una porta aperta e poi fuori dell'ascensore e giù per il corridoio sulle ruote di gomma nella sala operatoria. Non riconobbi il dottore col cappuccio e la maschera. C'era un altro dottore e altre infermiere. «Devono darmi qualcosa», disse Catherine. «Devono darmi qualcosa. Per favore, dottore, me ne dia abbastanza che mi serva». Un dottore le mise una maschera sulla faccia e io guardai attraverso la porta e vidi il piccolo anfiteatro luminoso della sala operatoria. «Può entrare dall'altra porta e sedersi lassù», mi disse un'infermiera. C'era qualche panca dietro a una ringhiera che dava sul tavolo bianco e la lampada. Guardai Catherine. Aveva la maschera sulla faccia e ora era pallida. Spinsero avanti il carrello. Mi voltai e scesi nel corridoio. Due infermiere correvano verso l'ingresso alla galleria. «È un cesareo», disse una. «Faranno un cesareo». L'altra rise. «Arriviamo in tempo, non è una fortuna». Entrarono nella porta che dava alla galleria. Giunse un'altra infermiera, anche lei correva. «Entri di qui, entri pure», disse. «Non rimango fuori». Entrò di corsa. Passeggiai su e giù in corridoio. Avevo paura di entrare. Guardai dalla finestra. Era buio, ma nella luce che usciva dalla finestra vidi che pioveva. Andai in una stanza in fondo al corridoio e guardai i cartellini sulle bottiglie nell'armadio di vetro. Poi uscii e rimasi in piedi nel corridoio vuoto e guardai la porta della sala operatoria. Uscì un dottore seguito da un'infermiera. Reggeva fra le mani qualcosa che pareva un coniglio scoiato di fresco e attraversò di corsa il corridoio ed entrò da un'altra porta. Mi avvicinai alla porta dove era entrato e li trovai nella stanza, intenti a lavorare su un bambino appena nato. Il dottore lo sollevò per farmelo vedere, lo prese per i piedi e lo batté. «Sta bene? È magnifico. Peserà 5 chili. Non sentivo niente per lui. Pareva che non avesse niente a che fare con me. Non provai niente di paterno. «Non è orgoglioso di suo figlio?» chiese l'infermiera. Lo stavano lavando e avvolgendo in qualcosa. Vidi la faccina scura, le mani scure, ma non lo vidi muoversi e non lo udii piangere. Il dottore ricominciò a fargli qualcosa. Sembrava agitato. «No», disse. «Ha quasi ucciso sua madre. Non è colpa di questo tesorino. Non voleva un maschio, no», dissi. Il dottore era affaccendato con lui. Lo prese per i piedi e lo batté. Non mi fermai a guardare. Uscii in corridoio. Ora potevo andare a vedere. Entrai dalla porta e scesi un poco in galleria. Le infermiere sedute alla ringhiera mi fecero cenno di andare accanto a loro. Scossi il capo. Vedevo abbastanza di dovero. Pensai che Catherine fosse morta. Aveva il viso grigio, la parte di viso che potevo vedere. Laggiù, sotto la luce, il dottore cuciva la ferita grande, lunga, dagli orli alti, squarciata dai ferri. Un altro dottore con la maschera dava l'anestetico. Due infermiere con la maschera porgevano degli oggetti. Pareva un disegno dell'Inquisizione. Capii, mentre guardavo, che avrei potuto guardare tutto, ma fui lieto di non averlo fatto. Non credo che avrei potuto guardare mentre tagliavano, ma guardai la ferita, chiusa in una costa dal bordo alto, con punti abili che parevano quelli di un ciabattino, e fui contento. Quando la ferita fu chiusa, uscii in corridoio e ricominciai a passeggiare su e giù. Dopo un po' il dottore uscì. «Come sta?» «Bene». «Ha guardato?» «Aveva l'aria stanca. L'ho visto cucire. Il taglio pareva molto lungo. Le è sembrato?» «Sì». «Ma la cicatrice si appiattirà?» «Sì». Dopo un po' portarono fuori il carrello e lo spinsero rapidamente in corridoio fino all'ascensore. Lo seguii. Catherine gemeva. Di sotto la misero nel letto della sua camera. Sedetti su una seggiola ai piedi del letto. C'era un'infermiera in camera. Mi alzai e rimasi in piedi accanto al letto. Era buio nella stanza. Catherine tese la mano. «Ciao, caro», disse. Aveva una voce debolissima e stanca. «Ciao, tesoro». «Che cos'era?» «Non parli», disse l'infermiera. «Un maschio. È lungo, è largo, è bruno. Sta bene?» «Sì», disse, «benissimo». Vidi che l'infermiera mi diede uno sguardo strano. «Sono terribilmente stanca», disse Catherine, «e mi fa un male d'inferno. Tu stai bene, caro?» «Benissimo, a non parlare». «Sei stato così caro con me, caro. Mi fa un male terribile. Com'è?» «Sembra un coniglio scuoiato con una faccia da vecchio grinzoso. Deve andarsene», disse l'infermiera. «Madame Henry non deve parlare». «Starò fuori», dissi. «Vado a mangiare». «No, starò fuori». Baciai Catherine. Era molto grigia e debole e stanca. «Posso parlarle un momento?» disse l'infermiera. Uscì in corridoio con me. Mi allontanai un poco in corridoio. «Cos'è successo al bambino?» chiesi. «Non lo sapeva». «No». «Non era vivo». «Era morto?» «Non sono riusciti a farlo respirare. Aveva il cordone intorno al collo o qualcosa del genere». «Così è morto?» «Sì». «È un tale peccato, era un così bel bambino». «Credevo che lo sapesse». «No», dissi. «È meglio che ritorni da Madame». Sedetti sulla seggiola davanti alla tavola, dove da una parte c'erano i rapporti delle infermiere appesi alle morse, e guardai fuori dalla finestra. Non potevo vedere altro che il buio e la pioggia che cadeva attraverso la luce della finestra. Così era andata. Il bambino era morto. Per questo il dottore aveva quell'aria stanca. Ma perché si erano comportati in quel modo, in quella stanza? Probabilmente credevano che avrebbe incominciato a respirare. Non avevo religione, ma sapevo che avrebbe dovuto venire battezzato. Ma se non aveva neanche respirato, non aveva respirato, non era mai stato vivo. Tranne in Catherine. Lo avevo sentito spesso dare dei calci, ma non più da una settimana. Forse era stato soffocato tutto quel tempo. Povero piccolo. Provai un desiderio del diavolo di essere io a quel modo. No, non è vero. Però non avrebbe dovuto esserci tutto questo morire da dover passare. Ora Catherine sarebbe morta. Questo si faceva. Si moriva. Non si sapeva di cosa si trattasse. Non si aveva mai il tempo di imparare. Si veniva gettati dentro e si sentivano le regole la prima volta che vi acchiappavano in fallo. Vi uccidevano. Oppure vi uccidevano gratuitamente come Aimo. O vi davano la sefilide come a Rinaldi. Ma alla fine vi uccidevano. Ci si poteva contare. Girateci intorno e vi uccidono. Una volta al campo avevo messo sul fuoco un ceppo pieno di formiche. Quando cominciò a bruciare, le formiche sciamarono fuori e prima corsero verso il centro dove c'era il fuoco. Poi si voltarono e corsero verso l'estremità. Quando sull'estremità ce ne furono abbastanza, caddero fuori nel fuoco. Alcune uscirono col corpo bruciato e appiattito e se ne andarono senza sapere dove stessero andando. Ma quasi tutte andarono verso il fuoco e poi ritornarono verso l'estremità e sciamarono sull'estremità fresca e alla fine caddero nel fuoco. Ricordo che quella volta pensai che era la fine del mondo ed un'occasione splendida per essere un messia e togliere il ceppo dal fuoco e gettarlo dove le formiche potessero scendere a terra. Ma non feci altro che gettare una tazza di latta piena d'acqua sul ceppo per avere la tazza vuota da metterci il whisky prima di aggiungere l'acqua. Credo che la tazza d'acqua sul ceppo che bruciava abbia soltanto affumicato le formiche. Così adesso ero fuori in corridoio e aspettavo di sentire come stava Catherine. L'infermiera non usciva, così dopo un po' mi avvicinai alla porta e l'aprii piana e guardai dentro. Dapprima non vidi niente perché in corridoio c'era la luce viva e nella stanza era buio. Poi vidi l'infermiera seduta accanto al letto e la testa di Catherine sul guanciale e lei tutta piatta sotto il lenzuolo. L'infermiera alzò un dito alle labbra, poi si alzò e si avvicinò alla porta. «Come sta?» chiesi. «Bene», disse l'infermiera. «Dovrebbe andare a cena e poi tornare, se vuole». Scesi il corridoio e poi le scale e poi uscii dalla porta dell'ospedale giù per la strada buia nella pioggia verso il caffè. Dentro era molto illuminato e c'era molta gente ai tavoli. Non vidi un posto dove sedere e un cameriere mi venne incontro e mi prese il soprabito bagnato e il cappello e mi portò a un posto a un tavolo davanti a un vecchio che beveva birra e leggeva il giornale della sera. Sedetti e chiesi al cameriere qual era il plat du jour. «Stufato di vitello. Ma è finito. A che cosa potrei mangiare?» «Prosciutto e uova, uova al formaggio, choucroute. Ho già mangiato la choucroute questa mattina», dissi. «È vero», disse, «è vero, ha mangiato la choucroute stamane». Era un uomo anziano con una chierica sulla testa e i capelli appiccicati sopra. Aveva una faccia gentile. «Che cosa vuole? Prosciutto e uova o uova al formaggio?» «Prosciutto e uova e birra. Mezza chiara?» «Sì», dissi. «Me lo ricordavo», disse. «Ha preso una mezza chiara stamane». Mangiai il prosciutto e le uova e bevvi la birra. Il prosciutto e le uova erano in un piatto rotondo, il prosciutto sotto e le uova sopra. Era molto caldo e al primo boccone dovetti bere un sorso di birra per rinfrescarmi la bocca. Avevo fame e chiesi al cameriere un'altra porzione. Bevvi parecchi bicchieri di birra. Non pensavo a niente, ma leggevo il giornale dell'uomo che mi era di fronte. Parlava dello sfondamento sul fronte britannico. Quando capì che stavo leggendo il rovescio del suo giornale, lo piegò. Pensai di chiedere al cameriere un giornale, ma non riuscivo a concentrarmi. Nel caffè faceva caldo e l'aria era viziata. Quasi tutti ai tavoli si conoscevano tra loro. C'erano parecchie partite alle carte in corso. I camerieri erano affaccendati a portare bibite dal bar ai tavoli. Due uomini entrarono e non trovarono posto dove sedere. Rimasero in piedi davanti al tavolo dove ero io. Ordinai un'altra birra. Non ero ancora pronto ad andare. Era troppo presto per ritornare in ospedale. Cercai di non pensare e di essere perfettamente calmo. I due uomini girarono un po', ma nessuno se ne andava, così uscirono. Bevi un'altra birra. Ora c'era un mucchio di piattini sulla tavola davanti a me. L'uomo di fronte a me si era tolto gli occhiali, li aveva messi via nell'astuccio, aveva piegato il giornale e se l'era messo in tasca e ora stava seduto col bicchierino del liquore in mano e guardava in giro per la stanza. Improvvisamente sentii che dovevo tornare. Chiamai il cameriere, pagai il conto, mi infilai il cappotto, misi il cappello, mi avviai verso la porta. Ritornai a piedi nella pioggia in ospedale. Di sopra incontrai l'infermiera in corridoio. «Le ho telefonato proprio adesso in albergo», disse. Qualcosa cadde dentro di me. «Cosa c'è che non va?» «Madame Henry ha avuto un'emorragia». «Posso entrare?» «No, no, non ancora. C'è il dottore da lei». «Pericolo?» «Molto». L'infermiera entrò nella stanza e chiuse la porta. Sedetti fuori in corridoio. Tutto era finito dentro di me. Non pensavo a niente, non potevo pensare. Sapevo che sarebbe morta e pregavo che non morisse. Non lasciarla morire. Dio, per favore, non lasciarla morire. Farò tutto quello che vuoi. Se non la lasci morire, ti prego, ti prego, ti prego. Dio caro, non lasciarla morire, Dio caro, non lasciarla morire, ti prego, ti prego, ti prego, non lasciarla morire, Dio, ti prego, non farla morire. Farò tutto quello che vuoi se non lo lasci morire. Hai preso il bambino, ma non lasciarla morire. Hai fatto bene, ma non lasciarla morire, ti prego, Dio caro, non lasciarla morire. L'infermiera aprì la porta e mi fece cenno col dito di avvicinarmi. La seguì nella stanza. Catherine non alzò lo sguardo quando entrai. Mi avvicinai al capezzale del letto. Il dottore era in piedi dall'altra parte del letto. Catherine mi guardò e sorrise. Mi curvai sul letto e incominciai a piangere. «Povero caro», disse Catherine, sottovoce. Era grigia. «Stai bene, Kate», dissi. «Starai benissimo». «Sto per morire», disse. Poi aspettò e disse. «Non voglio». Ripresi la mano. «Non toccarmi», disse. Le lasciai la mano. Sorrise. «Povero caro, toccami finché vuoi». «Starai bene, Kate. So che starai bene. Volevo scriverti una lettera che tu conservassi se succedeva qualcosa, ma non l'ho scritta. Vuoi che ti chiami un prete o qualcuno che venga a vederti? Solo a te», disse. Poi, poco dopo, «Non ho paura. È solo che non voglio». «Non deve parlare tanto», disse il dottore. «Va bene», disse Catherine. «Vuoi che faccia qualcosa, Kate? Posso darti qualcosa?» Catherine sorrise. «No». Poi, poco dopo, «Non farai con un'altra quello che facevamo noi e non dirai le stesse cose, vero?» «Mai. Però voglio che tu vada con le ragazze». «Non voglio andarci». «Lei parla troppo», disse il dottore. «Il signor Henry deve uscire. Può ritornare più tardi. Lei non sta per morire, non deve fare la sciocca». «Va bene», disse Catherine. «Verrò con te di notte», disse. Le riusciva molto difficile parlare. «Per favore, vada fuori dalla stanza», disse il dottore. «Lei non può parlare». Catherine mi sbatté gli occhi col viso grigio. «Sarò qui fuori», dissi. «Non preoccuparti, caro», disse Catherine. «Non ho affatto paura. È solo un trucco sporco». «Tesoro caro, così coraggiosa». Aspettai fuori in corridoio. Aspettai a lungo. L'infermiera venne alla porta e mi si avvicinò. «Temo che Madame Henry stia molto male», disse. «Temo per lei». «È morta?» «No, ma è uscita di coscienza. Pare che avesse un'emorragia dietro l'altra. Non riuscirono a fermarle. Entrai nella stanza e restai con Catherine finché morì. Non riprese mai conoscenza e non mi impiegò molto tempo a morire. Fuori dalla stanza, in corridoio, dissi al dottore: «C'è qualcosa che possa fare stanotte?» «No, non c'è niente da fare». «Posso accompagnarla in albergo?» «No, grazie. Rimarrò qui un momento. So che non c'è niente da dire, non so dirle...» «No», dissi, «non c'è niente da dire». «Buonanotte», disse. «Non posso accompagnarla in albergo?» «No, grazie. Era l'unica cosa da fare», disse. «L'operazione si è dimostrata...» «No, non voglio parlarne», dissi. «Vorrei accompagnarla in albergo». «No, grazie». Si avviò in corridoio. Mi avvicinai alla porta della stanza. «Non può entrare adesso», disse l'infermiera. «Sì, posso», dissi. «Non può ancora entrare». «Vada via», dissi. «Anche quell'altra». Ma quando le ebbi fatte uscire ed ebbi chiusa la porta e spenta la luce, non servì a niente. Fu come salutare una statua. Dopo un po' me ne andai e uscii dall'ospedale e ritornai a piedi in albergo nella pioggia. I can hear it